Capitolo 27. Gennaio e febbraio passarono per la famiglia di Longbourn senza altri avvenimenti più importanti di quelli riferiti e senza novità di maggior rilievo che le passeggiate a Meryton, qualche volta in mezzo al fango, qualche altra col freddo. Marzo doveva portare Elizabeth a Hainsford. Dapprima non aveva pensato molto seriamente a recarvisi, ma non tardò ad accorgersi che Charlotte ci faceva segnamento e a poco si mise a considerare ella stessa la cosa con maggiore diletto e crescente derisione. L'assenza aveva acuito in lei il desiderio di rivedere Charlotte e scemata la sua avversione per il signor Collins. La prospettiva rappresentava se non altro una novità, e siccome con una madre simile e delle sorelle di così scarsa compagnia la vita in casa non poteva essere l'ideale, un piccolo cambiamento non doveva come tale venir male accolto. Inoltre, il viaggio le avrebbe consentito di fare una capatina da Jane e, insomma, man mano che il tempo si avvicinava, qualche indugio le sarebbe rincresciuto. Tutto, invece, filò via diritto e finalmente ogni cosa fu stabilita secondo il primitivo progetto di Charlotte. Elizabeth avrebbe dovuto accompagnarsi a Sir William e alla sua figlia secondogenita. Fu presa per tempo la felice disposizione di passare una notte a Londra e l'itinerario divenne così perfetto. L'unico dispiacere fu quello di lasciare il babbo, che avrebbe certamente sentito la sua mancanza e che quando giunse il momento si rivelò così poco soddisfatto della sua partenza da raccomandarle di scrivergli promettendole quasi di rispondere alla lettera. L'addio fra lei e il signor Wickham fu assolutamente amichevole, un tantino di più da parte di lui. La sua presente conquista non poteva fargli dimenticare che Elizabeth era stata la prima ad estare e a meritare la sua attenzione, la prima ad ascoltarlo e a compatirlo. La prima ad essere ammirata. Nel suo modo di dirle addio, augurandole ogni divertimento, ricordandole quello che ella doveva aspettarsi da Lady Catherine de Bourgh e confidando che le loro opinioni su di lei, come del resto le loro opinioni su chiunque, avrebbero sempre coinciso. C'era una sollecitudine, un interesse che le pareva l'avrebbero per sempre legata a lui di un'amicizia speciale. E si accomiatò da lui persuasa che sposato scapolo, egli sarebbe sempre rimasto per lei il campione dell'amabilità e della cortesia. Buona ragazza, ma povera di cervello come il padre, non avevano nulla da dire che mettesse conto di ascoltare e si porgeva loro orecchio con lo stesso piacere con cui si ascolta il rumore di una carrozza. Elizabeth amava i paradossi, ma quelli di Sir William li conosceva da troppo tempo. Della sua presentazione a corte e del suo cavalierato non poteva raccontarle nulla di nuovo. I suoi convenevoli erano vecchi quanto i suoi racconti. Era un viaggio di sole 24 miglia e lo iniziarono così di buon'ora che per mezzogiorno erano in Gracechurch Street. Mentre si avvicinavano al portone del signor Gardiner, Jane era alla finestra di un salotto ad aspettare il loro arrivo. Quando entrarono nell'anticamera, ella era già lì a dar loro il benvenuto ed Elizabeth, scrutandola ansiosamente in volto, fu lieta di vederla bella e sana come sempre. Sulle scale c'era uno sciame di bambini così impazienti di vedere la cugina da non poterla stare ad aspettare in salotto e così intimiditi, non la vedevano da un anno, da non osare scendere sino in fondo. Tutto spirava letizia e cordialità. La giornata trascorse nel modo più piacevole, la mattina fra chiacchiere e compere e la sera a teatro. Elisabetta aveva fatto in modo di star seduta accanto alla zia, il loro primo argomento fu sua sorella, e fu più addolorata che sorpresa di udire in risposta alle sue domande minuziose che, sebbene Jane facesse ogni sforzo per mantenersi serena, pure attraversava momenti di vera disperazione. Tuttavia era ragionevole sperare che non sarebbero continuati per molto. La signora Gardiner le fornì pure i particolari della visita della signorina Bingley a Gracechurch Street. E le riferì diverse conversazioni svoltesi di volta in volta fra lei e Jane, le quali stavano a dimostrare che Jane aveva in cuor suo rinunziato a quell'amicizia. La signora Gardiner ricondusse poi la nipote sul tema della diserzione di Wickham e si felicitò con lei per il modo con cui l'aveva accettata. Ma, cara Elizabeth, che tipo è quella signorina King? Mi dispiacerebbe di pensare che il nostro amico è interessato. Mi scusi, cara zia, ma che differenza corre in materia matrimoniale fra ragioni di interesse e ragioni di prudenza? Dove finisce la cautela e comincia l'avidità? A Natale lei aveva paura che mi volesse sposare perché non sarebbe stato prudente e ora? Ecco, perché sta cercando di conquistare una ragazza che ha soltanto 10.000 sterline. Lei vuole dimostrarmi che è interessato. Se soltanto mi dicessi che tipo è la signorina King, saprei che cosa pensare. È un'ottima ragazza, credo. Non mi risulta nulla a suo carico. Ma lui non l'ha mai degnata della minima attenzione finché la morte del nonno non l'ha fatta padrona di quella sostanza. No? E perché avrebbe dovuto farlo? Se non gli era consentito aspirare al mio affetto, perché io non avevo quattrini, che ragione poteva esserci di fare la corte a una ragazza di cui non gli importava nulla e che era povera come me? Mi sembra però indelicato che gli abbia diretto su di lei la sua attenzione proprio subito dopo quel fatto. Un uomo che versa in strettezze non ha tempo di badare a tutte quelle regole di etichetta che altri si può permettere di osservare. Se non se ne è venuta male lei, perché dovremmo preoccuparcene noi? Il fatto che lei non se ne sia venuta male non lo giustifica, dimostra soltanto che anche lei è un po' manchevole in qualche cosa, buonsenso, sentimento che sia. Ebbene, sia come vuole lei allora. Lui è interessato e lei è una sciocchina. No, Lizzy, questo è appunto ciò che io non voglio. Mi dispiacerebbe, sai, pensare male di un giovane che ha vissuto tanto tempo nel Derbyshire. Oh, se soltanto per questo, io ho un'opinione ben modesta dei giovani del Derbyshire e i loro intimi amici dello Herefordshire non sono molto meglio. Ne ho abbastanza di tutti. Grazie al cielo, domani me ne andrò a trovare un uomo che non ha nemmeno una qualità positiva, che non può vantare né modi affabili né un po' di criterio. Dopotutto, soltanto gli stupidi sono quelli che vale la pena di conoscere. Bada Lizzy, codesto discorso sa fortemente di delusione. Prima che la fine dello spettacolo le separasse, Elizabeth ebbe l'inattesa felicità di ricevere un invito ad accompagnare gli zii in un viaggio di piacere che si ripromettevano di fare nell'estate. Non abbiamo ancora ben stabilito quale sarà la nostra meta, ma forse i laghi. Nessuna prospettiva poteva riuscire più gradita ad Elizabeth, che accettò l'invito con viva riconoscenza. Cara zia, che gioia, che felicità! Lei mi dà vita e vigore. Addio alle delusioni, addio alla malinconia. Che cosa sono gli uomini in confronto alle rocce, alle montagne? Che ore di godimento passeremo! E quando saremo di ritorno, non accadrà di noi come degli altri viaggiatori che non sono capaci di dare un'idea esatta di ogni cosa. Noi sapremo dove siamo stati, ci ricorderemo di ciò che avremo veduto, laghi, monti e fiumi. Non ci si confonderanno nella mente e neppure quando cercheremo di descrivere un paesaggio particolare ci metteremo a bisticciare per la sua posizione geografica. Faremo sì che i nostri primi sfoghi siano meno insopportabili di quelli della maggior parte dei viaggiatori. Capitolo 28. Nel viaggio dell'indomani tutto riuscì nuovo e interessante per Elizabeth. L'animo suo era incline a godere di ogni cosa. Aveva visto la sorella di così buon aspetto da bandire lei ogni timore per la sua salute, e poi la prospettiva del loro viaggio nel nord era per lei fonte di gioia costante. Quando lasciarono la strada maestra per imboccare il sentiero che portava a Hensford, tutti gli occhi si volsero alla ricerca della casa parrocchiale, che avrebbe potuto apparire da ogni volta. Da un lato rasentavano la palizzata del parco di Rosings ed Elizabeth sorrise nel ricordare tutto ciò che aveva sentito intorno alle sue abitatrici. Finalmente il presbiterio fu in vista. Il giardino che scendeva dolcemente verso la strada, la casa che vi sorgeva, la staccionata verde, la siepe di alloro, ogni cosa lasciava intuire che stavano arrivando. Il signor Collins e Charlotte comparvero sulla porta di casa e la carrozza si fermò davanti al cancelletto che all'imbocco di un piccolo viale inghiaiato conduceva alla casa, fra i cenni e i sorrisi della comitiva. Un attimo dopo erano tutti scesi dalla vettura, felici di rivedersi. La signora Collins accolse la sua amica col più vivo piacere ed Elizabeth fu tanto più soddisfatta di essere venuta nel vedersi così affettuosamente ricevuta. Si accorse subito che il modo di fare di suo cugino non era per nulla mutato col matrimonio. La sua cortesia formale era tal quale a quella che era sempre stata. Egli la trattenne qualche minuto al cancello per avere notizie e soddisfare tutte le proprie richieste riguardo alla sua famiglia. Vennero quindi introdotti in casa, indugiandosi soltanto ad osservare dietro suo invito quanto fosse graziosa l'entrata. Appena furono in salotto, con ostentata etichetta, egli diede loro nuovamente il benvenuto nella sua modesta dimora ed elencando quindi con esattezza tutto ciò di cui sua moglie disponeva per offrir loro un rinfresco. Elisabeth era preparata a vederlo in tutta la sua gloria e non seppe trattenersi dall'immaginare che, mostrando le belle proporzioni di una stanza, il suo stile, il suo mobilio, egli si rivolgesse a lei in modo particolare, quasi desideroso di farle capire che cosa avesse perduto rifiutandolo. Ma sebbene ogni cosa fosse graziosa e comoda, non si sentì di usargli la finezza di un sospiro di pentimento e guardava invece alquanto perplessa la sua amica, che riusciva a mantenere un'aria tanto gaia con un compagno simile. Quando il signor Collins diceva qualcosa di cui sua moglie potesse con ragione vergognarsi, il che non accadeva certo di rado, ella posava senza volere lo sguardo su Charlotte. Un paio di volte riuscì a cogliere un lieve rossore, ma generalmente Charlotte si dimostrava così saggia da non sentire. Dopo che si furono trattenuti abbastanza per ammirare ogni mobile della sala, dal canterano al paracamino, ed aver dato un resoconto del loro viaggio e di tutto ciò che era accaduto a Londra, il signor Collins si limitò a fare due passi nel giardino, che era grande e ben tenuto. Della coltivazione si occupava lui personalmente. Il giardinaggio era uno dei suoi rispettabilissimi svaghi ed Elisabeth ammirò il contegno dignitoso con cui Charlotte lodava la solubilità di tale esercizio, confessando che ella lo incoraggiava moltissimo. Qui, guidandoli per ogni vialetto, per ogni sentieruolo e concedendo loro a stento il tempo di pronunciare gli elogi che sollecitava, egli richiamò l'attenzione dei suoi ospiti su ogni punto di vista con una meticolosità che trascurava completamente la bellezza dell'insieme. Sapeva enumerare i campi in ogni direzione, avrebbe potuto dire quanti alberi c'erano nelle macchie più lontane, ma di tutti i panorami che il suo giardino, la regione o il regno potevano vantare, nessuno era paragonabile a quello su Rosings, che si presentava in una schiarida fra gli alberi fiancheggianti il parco, quasi di fronte alla facciata di casa sua. Era un bel edificio moderno, ben situato su un'elevazione del terreno. Dal giardino il signor Collins le avrebbe accompagnate a fare il giro dei suoi due campi, ma le signore, munite di calzature inadatte ad affrontare i resti della brinata, tornarono indietro. E mentre Sir William si intratteneva col genero, Charlotte accompagnò la sorella e l'amica a fare la visita alla casa, soddisfattissima, con ogni probabilità di poterlo fare senza l'aiuto del marito. Era una casa piuttosto piccola, ma ben costruita e confortevole, e tutto vi era accomodato con una grazia e un'armonia di cui Elizabeth attribuiva ogni merito a Charlotte. Quando si riusciva a dimenticare il signor Collins, si respirava davvero una grand'aria di benessere tutto intorno, e dall'evidente piacere che ne ritraeva l'amica, Elizabeth si immaginò che lì dovesse venir dimenticato sovente. Già, aveva appreso che Lady Catherine si trovava ancora in campagna. Se ne parlò di nuovo allorché furono a pranzo, quando il signor Collins, unendosi alla conversazione, osservò: «Sì, signorina Elizabeth, lei avrà l'onore di vedere Lady Catherine de Bourgh domenica prossima in chiesa, e non ho bisogno di dire che ne sarà entusiasta. È una signora tutta affabilità e degnazione, e non dubito che la onorerà di un pochino della sua attenzione una volta terminato il servizio religioso. Non esiterei neppure ad affermare che ella la comprenderà insieme a mia cognata Mary e gli inviti dei quali ci onora durante il suo soggiorno qui. Le sue maniere verso la mia cara Charlotte sono squisite. Pranziamo a Rosings 2 volte alla settimana e non ci permette mai di ritornare a casa a piedi, ma ordina regolarmente che ci venga messa a disposizione la sua carrozza. Una delle sue carrozze, per meglio dire, perché sua signoria ne ha parecchie. Lady Catherine è una persona molto rispettabile, ne è veramente intelligente, soggiunse Charlotte, ed è una vicina premurosissima. Verissimo, mia cara, appunto quel che sto dicendo io. Appartiene a quella specie di gentildonne che non si guardano mai con sufficiente venerazione. Passarono la serata a chiacchierare per lo più delle notizie dello Herefordshire, a ripetere quanto era già stato scritto. E quando si fu ritirata nella solitudine della sua camera, Elisabeth dovette meditare sul grado di felicità raggiunto da Charlotte per capire la sua abilità nel guidare un simile marito, nonché il suo spirito di abnegazione nel sopportarlo, e dovette ammettere che ci sapeva fare molto bene. Volle anche immaginarsi come sarebbe trascorso il suo soggiorno, il tranquillo tenor di vita dettato dalle occupazioni abituali, le fastidiose interferenze del signor Collins e le amenità delle loro relazioni con Rosings. Un po' di fantasia vivace l'aiutò a completare il quadro. Verso la metà del giorno seguente, mentre stava nella sua camera a prepararsi per una passeggiata, un improvviso vociare al piano di sotto sembrò denunciare che tutta la casa era sossopra. Dopo essere rimasto un momento in ascolto, udì qualcuno che correva in fretta e furia di sopra, chiamandola a gran voce. Aprì la porta e incontrò Mary sul pianerottolo che, senza fiato, per l'agitazione gridava: Oh, Lizzie cara, spicciati, ti prego, e scendi in sala da pranzo, che c'è qualcosa di bello da vedere. Non voglio dirti che cos'è, sbrigati e scendi subito. Inutilmente Elizabeth fece qualche domanda. Mary non volle dirle altro e insieme corsero giù nella sala da pranzo, posta di fronte al viale, incontro a quella gran meraviglia. Due signore in un calessino erano ferme davanti al cancello. È tutto qui? Esclamò Elizabeth. Mi aspettavo perlomeno che ci fossero i maiali a spasso per il giardino. E invece non è altro che Lady Catherine con sua figlia? Ma no, cara, fece Mary, mezzo scandalizzata dall'errore. Non è mica Lady Catherine, quella vecchia signora è la signora Jenkinson che abita con loro. L'altra è la signorina De Bourgh. Guardala, ti prego, che cosino. Chi si sarebbe mai immaginato che fosse così magra e piccina? Dimostra una deplorevole villania a trattenere fuori Charlotte con questo vento. Perché non entra? Oh, Charlotte dice che non lo fa quasi mai. È il massimo favore quando la signorina De Bourgh entra in casa. Mi piace il suo aspetto, disse Elizabeth, a cui altre idee attraversavano la mente. Ha un'aria malaticcia e bisbetica. Andrà proprio bene per lui. Sarà la moglie che gli ci vuole. Il signor Collins e Charlotte erano tutte e due in piedi davanti al cancello a conversare con le signore, mentre Sir William, con grave spasso di Elizabeth, si era piantato sotto il portico in attenta contemplazione della grandezza che gli stava dinanzi e non la smetteva di fare inchino ogni volta che la signorina De Bourgh guardava da quella parte. Quando infine non ci fu più nulla da dire, le signore continuarono la loro scarrozzata e gli altri rientrarono in casa. Non appena vide le due ragazze, il signor Collins cominciò ad allegrarsi con loro della loro buona sorte, che Charlotte spiegò con l'informarle che l'indomani erano tutti invitati a pranzo a Rosings. Capitolo 29. Con questo invito il trionfo del signor Collins fu completo. La possibilità di dar sfoggio delle ricchezze della patronessa ai suoi visitatori attoniti e di mostrar loro le cortesie cui egli stesso e la moglie venivano fatti segno era precisamente quanto aveva desiderato. E che così presto gliene venisse offerta l'occasione era un tale esempio di benevolenza di Lady Catherine che egli non sapeva come sufficientemente ammirarlo. Confesso, egli disse, che non sarei stato punto sorpreso se Sua Signoria ci avesse invitati domenica a prendere il tè e passare la sera a Rosings. Anzi, conoscendo la sua affabilità, quasi me l'aspettavo. Ma chi avrebbe potuto prevedere una cortesia come questa? Chi avrebbe potuto immaginare che avremmo ricevuto un invito a pranzo in casa sua? Un invito, si badi, esteso a tutti quanti, così, subito dopo il vostro arrivo. Io sono un po' meno sorpreso per quanto è accaduto, rispose Sir William, data la conoscenza diretta degli usi dei grandi che la mia posizione sociale mi ha permesso di acquisire. Fra i personaggi di corte, simili esempi di finezza non sono infrequenti. Per tutto quel giorno e per la mattina di poi non si parlò quasi d'altro che della visita a Rosings. Il signor Collins badava a rendere tutti edotti su ciò che si dovevano attendere, in modo che la visita di tutte quelle sale di tanta servitù, non meno del pranzo sontuoso, non li sopraffacesse completamente. Quando le signore si lasciarono per andare a far toeletta, egli disse a Elizabeth: Non si preoccupi troppo, la cara cugina, del suo vestiario. Lady Catherine è ben lungi dall'esigere in noi quell'eleganza nel vestire che si addice a lei e a sua figlia. Le consiglierei di limitarsi a indossare quello fra i suoi abiti che spicca fra tutto il resto. Non vi sarà migliore occasione per farne sfoggio. Lady Catherine non avrà minor stima di lei per il fatto di vederla vestita semplicemente. Le piace, anzi, mantenere una certa distinzione di ceto. Mentre si stavano vestendo, si avvicinò due o tre volte alla porta delle varie camere a raccomandarsi di far presto, che Lady Catherine si inquietava molto quando si faceva aspettare per andare a tavola. Simili straordinarie notizie sul conto di sua signoria e sul suo tenore di vita finirono col mettere paura a Mary Lucas, poco avvezza com'era la società. Ed ella si preparava ora alla sua presentazione a Rosings con la stessa apprensione che aveva nutrito suo padre quando era stato introdotto a corte. Poiché il tempo era bello, fecero una piacevole passeggiata di quasi mezzo miglio attraverso il parco. Ogni parco ha una sua particolare bellezza, i suoi punti di vista, ed Elizabeth vide molto di cui allietarsi, benché incapace di cadere nell'estasi che il signor Collins si aspettava le ispirasse il paesaggio, e si lasciò poco impressionare dall'enumerazione che egli le fece delle finestre sulla facciata del palazzo e dal racconto di quanto le vetrate erano venute a costare a suo tempo a Sir Louis de Bourgh. Nel salire la scalinata dell'ingresso, l'apprensione di Mary aumentava ad ogni istante, persino Sir William non sembrava del tutto tranquillo. Elizabeth non si sentì venir meno il coraggio. Non aveva udito nulla sul conto di Lady Catherine che le incutesse un reverenziale timore, né per particolare intelligenza, né per taumaturgiche virtù, e si sentiva di affrontare senza trepidazione il mero sfoggio di ricchezze e di nobiltà. Dalla sala d'ingresso, della quale il signor Collins fece ammirare estasiato le belle proporzioni e i raffinati ornamenti, seguirono i servi nel vestibolo e poi nella stanza in cui erano ad attenderli Lady Catherine con la figlia e la signora Jenkinson. Sua signoria si alzò a riceverli con grande degnazione e poiché la signora Collins aveva stabilito col marito che il compito delle presentazioni spettasse a lei, queste si svolsero nel modo giusto, senza nessuno di quei convenevoli ringraziamenti che egli avrebbe stimato necessari. Nonostante che fosse stato a corte, Sir William rimase così esterrefatto dalle meraviglie che lo circondavano, che trovò appena il coraggio di fare un profondissimo inchino e si mise a sedere senza proferir parola. Quanto a sua figlia, intimorita al punto di uscirne quasi di senno, si sedette sull'orlo della sedia senza saper in che direzione guardare. Elizabeth si sentì perfettamente all'altezza della situazione e fu in grado di osservare con calma le tre signore che le stavano dinanzi. Lady Catherine era una donna alta e tarchiata, con lineamenti molto marcati, che forse un tempo erano stati belli. Non aveva un tono affabile, né il modo in cui accolse i suoi ospiti fu tale da far loro dimenticare la loro inferiorità di origine. Non era il silenzio a renderla tanto imponente, ma qualunque cosa dicesse era enunciata in tono così autoritario da sottolineare la sua alterigia e da rievocare istantaneamente ad Elizabeth il ricordo del signor Wickham. E da quanto le fu dato quel giorno di constatare, ella si persuase che Lady Catherine rispondeva esattamente alla descrizione fattale dal giovane. Quando, dopo aver esaminata la madre, nel suo aspetto e contegno trovò qualche somiglianza col signor Darcy, ella volse gli occhi sulla figlia. Si sentì incline ad associarsi allo stupore di Mary nel trovarla così esile mingherlina. Non c'era fra madre e figlia nessuna somiglianza, né nel volto né nel personale. La signorina De Borgo era pallida e macilenta e aveva fattezze insignificanti, benché non brutte. Parlava pochissimo, se non per bisbigliare qualche cosa alla signora Jenkinson, la quale non aveva nulla di notevole nell'aspetto e non era intenta ad altro che ad ascoltare quello che la giovane le diceva, sistemandole il paravento nella giusta direzione. Dopo essere rimasti seduti qualche minuto, furono tutti invitati alla finestra ad ammirare il panorama, mentre il signor Collins si dava cura di illustrarne le bellezze, Lady Catherine gli informava cortesemente che in estate lo spettacolo era ancora più degno di essere ammirato. Il pranzo fu sontuoso sotto ogni aspetto, con tutti i servitori e il vasellame promessi dal signor Collins. E quando, come del pari aveva predetto, egli prese posto a capotavola, per desiderio di sua signoria, aveva l'aria di voler dire che la vita non può offrire nulla di più. Tagliava e mangiava e lodava con alacre delizia, e ogni piatto veniva raccomandato prima da lui e poi da Sir William, ormai abbastanza ristabilito da fare eco a qualunque cosa dicesse suo genero, talché Elizabeth si domandò come facesse Lady Catherine a sopportarlo. Ma Lady Catherine sembrava lusingata dalla loro sfrenata ammirazione ed elargiva molti benevoli sorrisi, specialmente ogni volta che una pietanza risultava una novità per i suoi ospiti. Per I convitati non avevano molti argomenti di conversazione. Elisabeth era pronta a parlare ogni volta che se ne presentava l'occasione, ma era seduta fra Charlotte e la signorina De Bourgh, la prima delle quali era impegnata ad ascoltare Lady Catherine, mentre la seconda non le rivolse la parola durante tutto il pranzo. La signora Jenkinson era soprattutto occupata a sorvegliare quanto poco mangiava la signorina De Bourgh, sollecitandola ad assaggiare qualche boccone di più e temendo che fosse indisposta. Mary stimava fuori questione il poter parlare e gli uomini non facevano che mangiare e tessere lodi. Quando le signore tornarono in salotto, rimaneva poco altro da fare se non stare a sentire Lady Catherine, che chiacchierò senza interruzione finché fu portato il caffè, sentenziando su ogni argomento in modo così deciso da dimostrare che non era abituata a sentir controbattere la sua opinione. Si informò delle faccende domestiche di Charlotte in tono familiare e minuzioso e le fornì una buona dose di consigli sulla maniera di accudirvi. Le spiegò quali fossero le norme da seguire in una famiglia piccola come la sua e la istruì sul modo di occuparsi delle mucche e del pollame. Elisabeth notò che quando le si offriva lo spunto di dettar legge al prossimo, non v'era nulla di troppo indegno dell'attenzione di quella grandama. Fra l'una e l'altra delle sue conversazioni con la signora Collins, ella rivolse una quantità di domande a Mary e ad Elizabeth, ma specialmente a quest'ultima, della cui situazione familiare era scarsamente informata e che, come ebbe ad osservare con la signora Collins, era un tipino molto grazioso e distinto. Le domandò a diverse riprese quante sorelle avesse, se erano maggiori o minori di lei, se ce n'era per l'uno o per l'altra di esse qualche possibilità di matrimonio. Se erano carine, dove erano state educate, che carrozza teneva il loro babbo e qual era il casato della loro madre. Elizabeth non mancò di sentire tutta l'indiscrezione di quelle domande, ma rispose con molta dignità. Poi Lady Catherine osservò: «La proprietà di suo padre è vincolata al signor Collins, mi pare», e rivolta a Charlotte. «Per lei me ne rallegro, ma altrimenti non vedo l'opportunità di vincolare beni al di fuori della discendenza femminile. Nella famiglia di Sir Louis Borg la cosa non fu ritenuta necessaria. Lei suona e canta, signorina Bennet? Un pochino. Oh, allora una volta o l'altra saremo lieti di ascoltarla. Il nostro piano è una vera meraviglia, probabilmente superiore al... Lo proverà un giorno. E le sue sorelle suonano e cantano? Una di loro sì. Perché non avete imparato tutte? Avreste dovuto imparare tutte. Le signorine Webb suonano tutte, il loro babbo non ha una buona rendita come il vostro. Lei disegna? No, affatto. Come? Nessuna di voi? No, nessuna. Questo è molto strano, ma forse ve ne è mancata la possibilità. La vostra mamma avrebbe dovuto accompagnarvi tutte le primavere a Londra per farvi istruire dai maestri. E mia madre non avrebbe avuto nulla in contrario. Ma mio padre non può soffrire Londra. E la vostra governante è andata via? Non abbiamo mai avuto governante. Niente governante? Ma com'è possibile? Cinque figlie educate in casa senza istitutrice? Non ho mai sentito una cosa simile. La vostra mamma deve essere stata completamente schiava della vostra educazione. Elisabeth riuscì a stento a trattenere un sorriso nel rassicurarla che questo non era stato il caso. Beh, e allora chi vi ha istruito? Chi si è occupato di voi? Senza governante sarete state trascurate. In confronto a certe famiglie credo di sì, ma quelle di noi che desideravano istruirsi ne hanno sempre avuto il mezzo. Siamo sempre state incoraggiate alla lettura e abbiamo avuto tutti i maestri che sono stati necessari. Certo che quelle che hanno preferito oziare hanno potuto farlo. Già, non c'è dubbio. Ma c'è appunto quello che può evitare un'istitutrice. E se io avessi conosciuto la sua mamma, l'avrei caldamente consigliato a prenderne una. Io sostengo sempre che per l'istruzione è indispensabile un insegnamento sistematico e regolare e non c'è che un'istitutrice che sia in grado di darlo. È straordinario il numero delle famiglie a cui ho potuto fornire aiuto in questo senso. Sono sempre contenta di collocare un giovane in un buon posto. Quattro nipoti della signora Jenkinson hanno trovato ottime sistemazioni per mezzo mio. Anche l'altro giorno ho raccomandato un'altra giovane di cui mi si era parlato per puro caso e la famiglia ne è soddisfattissima. Le ho detto, signora Collins, che Lady Mancalf è venuta ieri a trovarmi per ringraziarmi? Trova che la signorina Pope è un tesoro. Lady Catherine mi ha detto, lei mi ha fornito un tesoro. Qualcuna delle sue sorelle minori va già in società, signorina Bennet? Sì, signora. Tutte? Tutte? Tutte e cinque già in società? Stranissimo. E lei soltanto la seconda? Allora i minori sono già stati in società prima che le maggiori siano maritate. Le sue sorelle minori sono molto giovani, no? Sì, la più giovane non ha ancora 16 anni. Forse quella è davvero troppo giovane per frequentare tanto la società. Ma veramente, signora, a me pare che debba essere ben dura per le sorelle minori non poter partecipare a feste e divertimenti soltanto perché le maggiori non hanno modo o voglia di sposarsi presto. L'ultima nata ha pari diritti della prima ai piaceri della gioventù. Ed esserne sicura per un motivo simile mi sembra che non sia cosa atta a promuovere l'affetto fra sorelle o ad ispirare sentimenti generosi. Parola d'ordine, commentò sua signoria. Lei è molto decisa nell'esporre le sue opinioni, giovane com'è. Scusi, quanti anni ha? Con tre sorelle minori già grandi, rispose Elizabeth sorridendo. Voi signorie non può certo sperare che io sia disposta a confessarlo. Lady Catherine sembrò alquanto sorpresa di non ricevere una risposta diretta ed Elizabeth ebbe il sospetto di essere la prima persona che avesse mai osato cigliare con tanta dignitosa impertinenza. Lei non può avere più di 20 anni, ne sono certa, non ha quindi bisogno di nascondere la sua età. Non ne ho ancora 21. Dopo che gli uomini li ebbero raggiunti ed ebbero bevuto il tè, si disposero i tavolini da gioco. Lady Catherine, Sir William e i coniugi Collins si accinsero a una quadriglia e siccome la signorina De Bourgh preferì giocare a cassino, le due ragazze ebbero l'onore di aiutare la signora Jenkinson a formare l'altro gruppo. Il loro tavolo era superlativamente stupido. Non fu pronunciata quasi una sillaba che non avesse attinenza alla partita, eccetto quando la signora Jenkinson espresse i suoi timori che la signorina De Bourgh avesse troppo caldo, troppo freddo, o troppa luce, o troppo poca. All'altro tavolo, invece, avvenivano cose assai più importanti. Lady Catherine non la smetteva di parlare, sottolineando gli errori degli altri tre o raccontando qualche aneddoto che si riferiva a lei stessa. Il signor Collins era intento a confermare qualunque cosa dicesse sua signoria, ringraziandola per ogni gettone che guadagnava e scusandosi quando gli sembrava di guadagnarne troppi. Sir William non diceva granché, stava ammassando nella memoria aneddoti e nomi nobiliari. Quando Lady Catherine e sua figlia ebbero giocato a sazietà, i giocatori si alzarono e venne offerta la carrozza alla signora Collins, carrozza che fu prontamente accettata e subito ordinata. Gli ospiti si erano raccolti intorno al fuoco per sentire e decidere da Lady Catherine che tempo avrebbe avuto l'indomani. Furono dissolti da tari ragguagli dall'arrivo della vettura e presero commiato con molti sproloqui di ringraziamento da parte del signor Collins e da altrettanti inchini da parte di Sir William. Non si erano ancora allontanati dalla porta che Elizabeth venne sollecitata dal cugino a manifestare la sua opinione su tutto quel che aveva veduto a Rosings ed ella, per amore di Charlotte, la espresse più favorevole di quanto in realtà non fosse. Tuttavia, nonostante lo sforzo che le erano costate, le sue lodi non riuscirono assolutamente a soddisfare il signor Collins, il quale si vide presto costretto a prendere personalmente l'iniziativa dell'elogio di Lady Catherine.